il nostro lavoro, la terra inquinata, il corpo ferito, accogli Signore, Dio dell'universo, diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli Signore, benedetto nei secoli Signore, benedetto nei secoli Signore, benedetto nei secoli Signore. Col vino ti offriamo il nostro lavoro, la misera gente, il sangue innocente, accogli Signore, Dio dell'universo, diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli Signore, benedetto nei secoli Signore, benedetto nei secoli Signore, benedetto nei secoli Signore.